Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Caldiron Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. In apertura la manovra con una buona e una cattiva notizia. La buona è che il prossimo anno scolastico non saranno ridotti gli insegnanti di sostegno. In realtà ne servirebbero di più di quanti ce ne sono ora, perché non a tutti gli studenti disabili è di fatto assicurato il pieno diritto allo studio. Ma visto il momento di tagli, poteva anche andare peggio. La cattiva notizia invece è per gli insegnanti e non solo. Per il personale della scuola infatti è previsto il blocco dei contratti, così come per tutti gli altri dipendenti pubblici, e il blocco degli scatti di anzianità. E come facevamo a non parlare anche noi in obbligo di frequenza della proposta del senatore PDL Costa di allungare le vacanze scolastiche fino al 1 ottobre di antica memoria? Questa settimana chiunque ha espresso il suo parere su questo argomento, come sapete. Noi però vogliamo dare voce alle vittime sacrificali di questa proposta qualora dovesse diventare realtà. Nonni, bimbi e soprattutto mamme. Le voci raccolte da Matteo Finco in giro per Milano. Normalmente ci si organizza, nonni, campus estivi e cose di questo genere, insomma. È chiaro, se uno lavora solo le 3 settimane di ferie ad agosto, che prende agosto, luglio, insomma. Di solito, vabbè, i bambini sono o con i nonni oppure qui a Milano, all'Idroscalo, dove ci sono dei organizzazioni per tenere i bambini, perlomeno per fare un po' di sport, fare un po' di movimento. Mia figlia, cioè la madre del bambino, protesta, dice: ma come faccio e dove lo sistemo? È già un grosso problema, perché comunque lavorando il mese di giugno si riesce a in qualche modo compensare grazie all'oratorio estivo. Luglio e agosto chi non ha i nonni deve comunque spendere dei soldi per avere una tata, per avere qualcuno che dà una mano. Quindi già 3 mesi mi sembrano più che sufficienti. Allora, io ho 2 figli, devo, quando sono le vacanze estive, quindi giugno, luglio, agosto e un pezzo di settembre, meno male che hanno inventato il calendario, così è già una battaglia, un capo di battaglia così. Se poi arriviamo alla fine di settembre, non è più campo di battaglia, è strage. Allora, la grande va dalla nonna, il piccolo me lo tengo. Quindi quando anche lui crescerà la nonna ne prenderà 2? Sì, si spera, se no lo lascio, non so, da qualche parte, accanto a una piscina comunale, vicino a un asilo, sì. Campus, molti campus, poi vado 1 o 2 settimane, 3 al mare e l'estate passa così fino a settembre. Solo un modo per inguaiare ancora di più le mamme italiane, che già sono fra gli ultimi posti per l'assistenza in Europa, quindi già in una situazione molto difficile. Non vengono aiutate, ci sono pochi bambini. Generalmente, se no, li iscrivo ai corsi estivi. Però poi ad agosto non c'è niente. Però sono tutte cose che trovi a pagamento, che organizzano magari i centri sportivi. E quindi, insomma, l'estate diventa abbastanza impegnativa a livello di costi poi. Quando invece lei era una bambina, le cose erano un po' diverse. Le mamme non lavoravano. Le mamme non lavoravano e quindi 3 mesi di vacanza sempre, 3 mesi. Adesso i bambini sono costretti in città col caldo, il cemento, lo smog, è abbastanza triste. Ha suscitato un polverone un'altra vicenda questa settimana, l'iniziativa del direttore dell'ufficio scolastico dell'Emilia-Romagna, Marcello Limina. Basta con le esternazioni estemporanee alla stampa, così suonava il suo invito. In molti, fra cui molti presidi, hanno gridato alla censura. Giovedì c'è stata anche una manifestazione di fronte all'ufficio scolastico regionale di Bologna, del coordinamento delle scuole superiori della provincia e del coordinamento dei precari. Tutto un fraintendimento, ci ha spiegato invece Limina. Ma ecco, innanzitutto c'è un errore di fondo, e anche il fraintendimento deriva dal fatto che non era una lettera diretta a tutti, né tantomeno diretta ai presidi. Quindi il fraintendimento deriva soprattutto da questo. E a chi era diretta? La mia era una nota riservata, peraltro, scritto a lettere cubitali, quelli che fino a poco tempo fa si chiamavano provveditori agli studi, cioè i miei dirigenti provinciali, a cui dicevo sostanzialmente quello che più o meno sapete, cioè è necessario diciamo così, valutare quali soluzioni caso per caso adottare per una corretta comunicazione da parte del personale. Cioè, io mi ero accorto, quindi innanzitutto vorrei precisare che nessun prete troverà nella propria buca delle lettere nessuna intimidazione da parte mia, tanto per essere chiari, perché qui sono cominciate a uscire fuori cose strampalate. Quindi insomma i presidi potranno continuare a parlare con noi giornalisti, con me in particolare, se no la mia trasmissione praticamente chiude qua. Ma guardi, questo è di tutta evidenza. La mia lettera diceva proprio questo, se vuole le leggo tre righe che sono proprio le cose essenziali con cui siamo quasi, qua per quasi ascoltarla. La mia lettera dice proprio questo, virgolette, ferma restando la libertà di manifestazione del pensiero, occorre osservare che la stessa manifestazione del pensiero trova limiti nell'etica e nella correttezza professionale, nonché nella tipicità della funzione educativa, chiuse virgolette. Ma scusi, mi faccia capire perché lei si è così arrabbiato, perché il perché di questa circolare? C'è stata qualche intervista che l'ha un po' fatta arrabbiare? No, assolutamente no, non riguarda delle interviste fatte a me. Lei, ma interviste di qualche dirigente che insomma non le è piaciuta, perché insomma se ha emanato questa circolare qualcosa l'avrà fatta scattare? Beh, dunque, io leggo frequentemente sulla stampa o comunque su documenti approvati da organi collegiali impropriamente della scuola o da assemblee in cui il personale della scuola chiede certe cose. Allora, nessun problema. Si può chiedere di tutto, si può discutere, si può parlare, però la comunicazione deve essere chiara, deve anche essere stabilita in un piano di corrispondenza reale e di comprensibilità reciproca. Ma qualcuno ha detto democrazia. Fandoni, ha detto bugie, ha detto stupidaggini? Sì, non solo in alcuni casi si dicono cose non corrette, ma vengono dette con toni così esasperati e con toni anche da tragedia che molte volte non corrispondono alla verità, ma inaspriscono il confronto, non è che aiutano a comprendere quali sono i reali motivi della conflittualità. Ha ragione, però sa cos'è? Certo. Che durante le interviste i toni sono quelli che uno sente nel proprio animo, no? Quando si parla spesso di precariato, di scuole che non funzionano, in Emilia Romagna ci sono tante scuole che funzionano, quindi per carità Direi di Dio, però ci sono anche, come in tutta Italia purtroppo, cose che non funzionano, soprattutto per questi benedetti soldi che non sono mai sufficienti. Allora lì gli animi forse si scaldano un po'? Direi proprio di sì, questo lo capisco, però dico, al di là di scaldarsi gli animi, al di là di discutere, ci deve anche essere, se noi mettiamo negli zainetti degli bambini perché li consegnino alle famiglie note di ultimative o frasi che sono di un contenuto direi di rottura completa e quasi appello a non so quale mobilitazione continua, io posso anche capire, lo comprendo, anch'io sono preoccupato per il futuro dei miei figli, però da parte di chi fa scuola, da parte di chi è educatore, bisogna anche cercare di dare anche un'educazione ai nostri figli al rispetto certo delle prerogative dei singoli, ma anche di tante altre cose, per esempio del vivere democratico, anche delle decisioni che il nostro Parlamento democraticamente approva. No, ma non cioè, solo secondo lei qualche dirigente piacere. Scolastico ha infilato nello zainetto dei nostri figli, insomma di alcuni studenti dell'Emilia Romagna, delle considerazioni un po' troppo spinte? Non lo dico io, è un dato di fatto, ci sono dei casi in cui si esagera, insomma, diciamo in altri termini, si esagera a volte la prosa e il contenuto. Chi ha una funzione educativa, secondo me, dovrebbe anche cercare di dire, guardate ragazzi, noi ci possiamo anche confrontare con tutti democraticamente, ma bisogna usare un tono corretto, il confronto democratico deve essere civile, cioè questo tipo di educazione credo che anche noi dovremmo trasmettere e non trasmettere ad esempio il ragionamento per cui certe leggi sono belle e certe altre sono brutte. Quindi non credo che diamo una bussola. Quindi il suo invito però è anche ai dirigenti scolastici, ai presidi, presidi, perché se lei fa riferimento a qualche preside che ha infilato negli zaini. No, no, presidi, sono anche, non mi riferisco, non voglio qui adesso con lei riferirmi a dei casi particolari, però le assicuro che comunque alcuni casi ci sono e non sono pochi. Io dico, ritengo che dobbiamo stare attenti quando esercitiamo una funzione come quella che è educativa, e quella che il personale della scuola è chiamato a svolgere, che i ragazzi ci osservano, i ragazzi apprendono da noi, quindi dobbiamo avere anche famiglie, un ruolo, certo. E anche le famiglie, quindi dobbiamo avere anche un ruolo che è rispettoso del mondo democratico in cui viviamo, cioè altrimenti non contribuiamo a educare i nostri figli in modo, io solo questo voglio dire. Certo, se domani ho bisogno di chiamare un preside dell'Emilia Romagna, posso farlo per intervistarlo, mi possono dire quello che vogliono, la mia trasmissione è salva. Certamente. È tutto per oggi, per ascoltare questa puntata come tutte le altre www.radio24.it, ci sentiamo sabato prossimo come sempre alle 12.45.